Life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Benvenuti al nostro consueto appuntamento settimanale di ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 10, alle 16 e alle 22 su Radio Libriamoci Web, oppure in podcast sia sul sito della radio che su Nottetempo Blog. Io sono Livia Napolitano e vi ringrazio per l'ascolto. Con questa settimana siamo giunti al terzo racconto del collettivo Linea S, che vi ricordo far parte di una serie di racconti scritti in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile e che hanno come protagonista principale la bicicletta. Quello di questa settimana, dal titolo Equilibrio su ghiaccio, è scritto ed interpretato da Federica Kessisoglu. Federica Kessisoglu è nata a Genova, vive a Zoagli, un bellissimo borgo del Golfo del Tiguglio, ed ha origini in Armenia, la terra delle pietre urlanti. Questo mix di paesaggi e culture molto probabilmente ha influito sia sulla sua creatività, che spazia dalla fotografia, dal teatro alla scrittura, che sulla sua personalità, sempre pronta a condividere sogni e sorrisi. Vi lascio quindi all'ascolto di Equilibrio su ghiaccio di Federica Kessisoglu. Equilibrio. La prima voce del dizionario recita: stato di quiete di un corpo. Vi è quello statico e quello dinamico. Irene ne è sprovvista. Lo sa, lo sanno tutti. 30 anni, alta e slanciata, con piedi sproporzionatamente piccoli, è capace di perdere l'equilibrio improvvisamente anche da ferma. Le capita spesso di accucciarsi a sbirciare nuovi mondi nati in fondo all'ultimo ripiano del frigo e sentire una forza attirarla verso terra. Si ritrova a gamba all'aria con un vasetto di sottaceti scaduti in mano. Quando cammina per strada con quell'andatura speciale, un po' caracollante, spesso inciampa o prende storte. I tacchi, anche quelli più modesti, sono fuori discussione. È riuscita a storcersi la caviglia indossando ballerine e cadendo da un gradino alto un paio di centimetri. Si sente sempre troppo o troppo poco. Troppo alta, troppo magra, troppo indecisa, troppo poco femminile, troppo timida, troppo poco popolare, troppo idealista, troppo poco dinamica. Il fatto è che Irene fatica a trovare il suo punto di equilibrio, o anche solo un punto di appoggio. Il fatto è che non è ancora consapevole, non sa quanto quella totale assenza di equilibrio sia già un punto fermo, solido. La bicicletta è stato il primo strumento che le ha permesso di misurarsi con la gestione di forze uguali e contrapposte. La ricevette in dono dal nonno e non potrà mai dimenticarsi come andarono le cose. Si avvicinava il giorno del suo 8° compleanno e il papà, un pomeriggio, l'aveva chiamata nello studio. Lo studio del padre, sempre immerso nella penombra con la grande scrivania stracolma di carte, portamatite, pile di cartoline colorate e la grande abat-jour con la base in peltro e il grosso cappello bordeaux raffigurante stemmi araldici, incuteva in lei fascino e soggezione. Irene le disse: «Tra pochi giorni è il tuo compleanno, il nonno ti vorrebbe regalare una bicicletta e la casa delle bambole. Sai, quella che gli ha indicato durante la vostra ultima passeggiata in centro». Irene ricordava bene l'episodio. Andava spesso a passeggiare con il nonno. Le loro erano camminate silenziose. Il nonno aveva un modo incurante e delicato di prenderla per mano. Irene percepiva i suoi stati d'animo attraverso il calore del suo palmo, dal lieve movimento delle dita, dalla fermezza della stretta. Il nonno pareva distratto, ma all'improvviso una sua parola o uno sguardo la colpivano, facendola barcollare. Irene non era una bambina viziata, non faceva capricci, anche perché parlava troppo poco a detta di sua madre e delle maestre. Per questo le piaceva così tanto passeggiare con il nonno. Non aveva bisogno di parlare, non doveva sforzarsi di tenere in equilibrio una conversazione. Quel pomeriggio passarono davanti alla vetrina del suo negozio di giocattoli preferito. Avevano da poco rinnovato la vetrina e al centro, su un piano rialzato, era stata sistemata la casa delle bambole più bella che avesse mai visto. Una struttura in legno dipinto di bianco, divisa in 3 piani più la piccola soffitta. Al centro una delicata scala porta dal piano terra al primo piano. Il tetto è adornato da graziosi merli stondati e la camera da letto si apre su 2 balconcini retti da sottili colonne anulari. Irene aveva spalancato gli occhi osservando la piccola vasca da bagno retrò, sorretta da piedini che figurava al piano terra, o il letto baldacchino, ancora il frigo color arancio con lo sportellino aperto. Aveva stretto involontariamente la mano del nonno e questi aveva capito. «Due regali come quelli sono troppi, Irene. La voce del padre la riportò di colpo davanti alla grande scrivania dello studio. «L'ho detto a nonno che vorrebbe scegliessi tu quello che più desideri». Irene sorrise, pensando alla bellissima casa, all'infinità di storie che si sarebbe inventata. Ma il padre pensò esitasse e aggiunse: «Se posso consigliarti, Irene, credo che la bicicletta sia la scelta migliore. Ti stancherai presto della casa delle bambole, mentre la bici ti accompagnerà per tanti anni. Ti assicuro che la prima bicicletta non si scorda mai». Irene fece un passo indietro e annuì. Il giorno del suo compleanno si vide recapitare una bicicletta con telaio verde smeraldo e selino bianco, adornata da due fiocchi rosa fucsia appesi al manubrio. Finse entusiasmo. Per svariate settimane rimase seduta in camera a contemplare quello strano oggetto che lo incuriosiva e l'angosciava. Rappresentava un nuovo possibile fallimento. A scuola era un'alunna diligente e tranquilla, ma l'ora di ginnastica la viveva come un incubo. Alle gare di staffetta arrivava sempre ultima e aveva paura di salire sul quadro svedese. Quando venivano chiamati a formare le squadre, rimaneva sempre l'ultima scelta dei compagni. Per questo motivo pensava che non sarebbe mai riuscita a stare in equilibrio sulla bici. Irene aveva passato le dita sopra e in mezzo ai raggi delle ruote. Si divertiva a far suonare il campanello. Aveva annusato il sellino di morbida pelle. In breve, aveva cercato di prendere confidenza con la bici, ma guadagnare la sua amicizia le sembrava un sogno irraggiungibile. Un pomeriggio il nonno la passò a prendere in macchina, caricò la bicicletta nel portabagagli e partirono. Arrivarono davanti al mare, sulla larga passeggiata che costeggiava la spiaggia per diversi chilometri. «Vieni, Irene, dammi la mano», le disse il nonno. Per un po' passeggiarono così. Il nonno teneva Irene con una mano e con l'altra la bicicletta. «Hai pensato a un nome da dare alla bici?» «Veramente no. Chiudi gli occhi, toccala e dimmi la prima parola che ti viene in mente». Irene chiuse gli occhi. Il nonno le prese la mano e la posò sulla leva del freno. Irene fece scorrere le dita lungo il manubrio, arrivò al campanello e li riaprì improvvisamente. «Allora», la guardò il nonno, «come si chiama?» «Non so, è strano», esitò Irene. «Ho pensato al ghiaccio». «Bene, allora ti presento Ghiaccio. Ghiaccio Irene, Irene Ghiaccio». Dicendo così le lasciò le mani sul manubrio. A quel giorno ne seguirono altri. Vi fu quello in cui il nonno mollò improvvisamente la bici. Irene iniziò a zigzagare all'impazzata, gettando nel panico uno sparuto gruppo di tortore che becchettavano briciole di pane. Oppure quella volta in cui affrontò la sua prima vera discesa. «Non toccare la leva del freno, Irene, pedala all'indietro», le aveva consigliato il nonno. Fece un bel volo, ma fortunatamente cadde sul prato e si procurò solo un livido sulla coscia. L'equilibrio, quello vero, Irene lo sperimenta solo quando inforca la sua bicicletta. A Ghiaccio ne sono seguite molte altre, virgola, forchetta, spigolo. L'ultima si chiama turbina e non importa che sia troppo scomodo o troppo poco alla moda. Quando Irene monta sul sellino e inizia a pedalare, si sente libera ed elegante, leggera e silenziosa. Pensa al nonno, chiude gli occhi per un attimo e si lascia attraversare da un sottile brivido di esitazione, prima di riprendere pieno possesso di sé e della strada.